Letture di Radio 24. Nel XV secolo, Venezia vantava le più grandi tipografie del mondo, in grado di stampare volumi in qualsiasi lingua. Ed è qui che vengono pubblicati il primo Talmud e il primo Corano in arabo. Nemmeno la Germania di Gutenberg, dove la stampa a caratteri mobili era stata inventata più o meno 65 anni prima, tra il 1452 e il 1455, era in grado di intaccare il primato. A Venezia, nella prima parte del Cinquecento, si stampava la metà di tutti i libri pubblicati in Europa, e il primato non era solo quantitativo, ma anche qualitativo. Senza l'editoria veneziana di quel secolo non esisterebbero il libro come noi lo conosciamo e nemmeno la lingua italiana come la parliamo oggi. L'italiano è sì basato sull'opera dei toscani Dante e Petrarca, ma sono le edizioni veneziane curate dall'umanista Pietro Bembo e stampate dal re degli editori, Aldo Manuzio, a imporne il successo che dura ancora ai nostri giorni. Il mercato editoriale a Venezia è talmente importante da rendere la città una specie di fiera permanente durante tutto l'anno. Alle due manifestazioni librarie più importanti d'Europa, Lione e Francoforte, la presenza degli stampatori e mercanti veneziani è preponderante fino ai primi del Seicento, quando finisce col prevalere la concorrente Anversa. La clientela di officine e cartolai della Serenissima, quindi, non era costituita solo da studiosi veneziani e stranieri di passaggio, ma anche da altri librai italiani che si rifornivano in laguna. In tutto il Cinquecento si registra la tendenza alla crescita del numero delle opere esposte in vendita, ma aumenta il numero delle edizioni proposte, non quello delle copie di ogni singolo titolo, che invece tende a rimanere uguale. Si tenta di attrarre il cliente offrendogli l'opportunità di trovare il titolo che cerca, ma la lettura rimane un fatto elitario fino a tutto il XVIII secolo. Si calcola che in Germania nel Settecento il pubblico dei lettori regolari si aggiri attorno all'1,5% della popolazione totale. Solo nel secolo successivo la lettura diverrà un fenomeno di massa. La Venezia cinquecentesca, tuttavia, fa eccezione anche in questo. Un quarto della popolazione maschile tra i 6 e i 15 anni va a scuola, percentuali inarrivabili altrove, e che spiegano l'interesse per i libri. Le opere del XVI secolo non hanno un prezzo di copertina, come noi oggi siamo abituati a vedere. Tutto è lasciato alla libera contrattazione, ed è molto probabile che tra libraio e cliente si svolgessero serrate trattative, più simili a quelle che caratterizzano un souk medio orientale che non una moderna libreria. I prezzi fluttuano da officina a officina, da cliente a cliente, di giorno in giorno. I personaggi eminenti ottengono sconti maggiori. In ogni caso, il passaggio dal manoscritto al libro provoca un crollo epocale dei prezzi. La frammentazione dell'Europa di allora, in una quantità di stati medio piccoli, ognuno con la propria valuta, gioca a favore dell'estrema variabilità dei prezzi e dà vita a un sistema commerciale basato sul baratto, in modo da contrastare la volatilità e la difficoltà dei cambi. Si scambiano libri con libri, ma anche libri con farina, vino, olio. Avete ascoltato la lettura di alcuni brani del libro di Alessandro Marzo Magno, L'alba dei libri, quando Venezia ha fatto leggere il mondo. Garzanti, 209 pagine, 22 euro. Dopo aver vissuto per molti anni a Milano, nel 1947 lo scrittore Giuseppe Marotta torna nella sua Napoli e ne descrive i cambiamenti in una serie di racconti pubblicati sul Corriere della Sera e poi raccolti nel volume L'oro di Napoli, libro da cui Vittorio De Sica trarrà poi l'omonimo film. L'anno successivo Marotta pubblica San Gennaro non dice mai no, una nuova serie di ritratti della sua città. Passata l'euforia dell'immediato dopoguerra, Napoli deve ancora una volta affrontare la sua miseria, avendo a disposizione una sola arma: la pazienza, il vero oro dei napoletani. Povera di industrie e ricchissima di sole, Napoli è una città di artigiani. Di ciò ero ben certo. Fin da bambino ho udito martelli rintronare e seghe lamentarsi fra queste mura, come nel villaggio leopardiano la sera del sabato. Ma imbattendomi in un amico che a Napoli ha relazioni dovunque e che sa di ogni vicolo e di ogni casa più di quanto sappia della sua stessa moglie, gli chiesi: «E adesso? Come se la passano oggi gli artigiani?» Eravamo in via Vergini, tra una mostra di erbivendolo e un pianino automatico che eccezionalmente taceva, essendosi il suo manovratore, un bel ragazzetto nero come il diavolo, allungato a dormire sul terrazzo dello strumento. Ubaldo, il mio amico, assunse un'espressione trionfale. «Sarti e barbieri più che altro li esportiamo. Continuano, non appena in possesso di uno stile, a trasferirsi nel nord, a Milano, a Torino, a Genova. E anche all'estero debbono essersi accorti da tempo che lavoranti barbieri e lavoranti sarti, come ne produce Napoli, non sono operai, sono artisti». Diceva Don Beniamino Battaglia, il vecchio maestro d'ago che dal suo basso di Vico Gravina mandò per il mondo centinaia di primi lavoranti. «Mettetevi in mente, bestie, che una giacca si lavora col pollice e con l'anima. Rendetevi conto che una giacca è un pezzo di scultura. Quanto ai barbieri, hai mai visto a Napoli un buon barbiere che si serva della macchinetta? I discendenti degli inventori della parrucca, figuriamoci. Un barbiere napoletano che si rispetti lavora a mano franca. A punta di forbici, è solo a punta di forbici. Lo sai che il famoso Carfagna, brillo da non reggersi in piedi, un giorno eseguì impeccabilmente un taglio di capelli senza servirsi che di una sola mano e delle sole forbici, ossia senza la guida del pettine? Non lo sapevo. E forse anche il cliente che offrì i suoi capelli, col capo che c'era sotto, al fatidico esperimento del Carfagna, meriterebbe di essere ricordato. Con Ubaldo visitai una piccola fabbrica di scarpe ai cristallini. Dava lavoro a una famiglia di 7 persone, che cominciava col vecchio Don Vincenzo e finiva col giovanissimo Salvatore, di 7 anni. Operai di questa azienda si nasceva, non si diventava. Tanto è vero che se un bambinello di pochi mesi sonnecchiava e cresceva in un angolo della fabbrica, lo faceva però in modo da spolverare infaticabilmente, col suo alito, il rotolo di pelli su cui lo avevano deposto. Dunque erano 8 gli operai. Il più immaturo si limitava, come ho detto, a soffiare sulla materia prima. Gli adulti, circonfusi di pulviscolo solare, faticavano senz'altro limite che quello del numero di scarpe da licenziare entro la giornata. Don Vincenzo era il modellista e il tagliatore. I figli, maschi e femmine, si dividevano le mansioni di montatore, di suolatore, di orlatrice e di apparecchiatrice, con questa ingegnosa variante, che chi prima aveva esaurito il suo compito non faceva che allungare una mano, prendere un paio di scarpe e trasformarsi da montatore in suolatore, o viceversa. Come dite, bravura? E che altro è Napoli, nel bene e nel male, nella ragione e nel torto, nel vero e nel falso, se non tutta una sfortunata, poco nota, lunga, mesta e rassegnata bravura? Quando il vecchio Don Vincenzo aveva finito la sua partita di scarpe, si issava su un camion fra 2 casse e andava a venderla a Roma. Aveva una clientela di negozianti sopraffini e stemmati, i quali usufruivano dell'esclusività del modello e rivendevano per 12 o 15 mila lire un paio di scarpe che pagavano a Don Vincenzo metà in contanti e metà in cambiali, dalle 5 alle 6 mila lire. Belle scarpe, veramente, e portavano un nome straniero evocatore di maestose fabbriche americane o inglesi, quel che di oltremarino e di imperiale, di austero e solido, con cui i piedi di ogni latitudine subito fraternizzano. «Ah, se potessi allargarmi! Mannaggia il capitale!» disse Don Vincenzo mentre io mi accomiatavo, chinandomi ad accarezzare il bambino sulle pelli, che nel sonno rideva a una fabbrica ingrandita o a non so che cosa. Alle radici di tutto il dolore di Napoli sta questa grande assenza del denaro, il quale o manca o non si fida. Non vive la sua vita. Esiste soltanto nei forzieri dei miliardari locali, come un santo imbalsamato nelle cripte degli altri. Andate a capire perché all'ottimismo e alla fiducia si addicano esclusivamente le nebbie e il cappotto di pelliccia e l'ombrello. Mai incontrerete vivo il capitale da queste parti, in calzoni bianchi e maglietta sotto il sole. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Giuseppe Marotta, San Gennaro non dice mai no. Avagliano Editore, 22 pagine, 14 euro.